Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, vedo che la situazione politica italiana si è cacciata da diversi anni in un vero e proprio pantano. Sia la destra sia la sinistra non hanno idee forti. Si limitano a dire di essere l'una più brava dell'altra, ma gli scandali sono all'ordine del giorno. La vecchia DC, l'idea forte ce l'aveva, erigere una diga contro il comunismo. In questo modo ci ha evitato pertanto un'esperienza che sarebbe stata disastrosa, dato che il comunismo è stato condannato a morte dalla storia. L'idea forte di oggi potrebbe riguardare il debito pubblico dell'Italia. Sappiamo quanto sia gravosa questa eredità e quanto pesi su ogni singolo cittadino. Un partito che mettesse in prima linea l'obiettivo di ridurre questo fardello, con una corta politica virtuosa nella spesa e virtuosa nei comportamenti dei singoli e della macchina statale, sarebbe secondo me auspicato dalla maggioranza degli italiani. Ma i partiti in campo in questo momento sono credibili, dopo essersi cimentati senza costrutto? Avanti quindi, spazio a un partito nuovo con gente virtuosa, che ricordi agli italiani qual è la priorità per i prossimi anni. Giuseppe. Caro Giuseppe, il suo progetto è altrettanto ambizioso quanto, mi permetta, irrealistico. Lei propone un nuovo partito che raccolga uomini di alto livello e che abbia come obiettivo una drastica riduzione del debito pubblico in modo da liberare il paese da questo vincolo e permettere all'Italia un nuovo miracolo economico. Realisticamente, e potrei dire purtroppo, non credo che un partito di questo tipo, ammesso che possa nascere, possa poi riuscire ad ottenere un grande consenso. Questo perché i sostenitori della spesa pubblica raccolgono adesioni e favori a destra e a sinistra e ogni proposta strutturale per ridurre questa spesa, pensiamo all'abolizione delle province, ha sempre trovato ostacoli e opposizioni. Senza dimenticare che la spesa pubblica, basti pensare alla sanità o alle pensioni, è una componente fondamentale della struttura sociale e se sono possibili e doverosi risparmi e migliore efficienza, non è per nulla facile proporre tagli drastici e definitivi. Quindi più che pensare a rivoluzioni politiche, è molto meglio coalizzare l'impegno di ciascuno per portare la propria parte politica a una sempre maggiore integrità morale, unita a una sempre migliore efficienza dello Stato. E non deve spingere alla rassegnazione il fatto che negli ultimi anni si sia andati nella direzione opposta, con uno Stato che non riesce a riformare se stesso e con una democrazia sempre meno efficace e rappresentativa. I tempi sono difficili, ma proprio per questo appare utile non fermarsi alle utopie, ma muoversi con piccoli passi, magari iniziando a non votare chi ha confuso la politica con i propri interessi personali. Mi presento, mi chiamo Lambro, ma non so cosa sono. Una volta ero un fiume, ma è passato tanto di quel tempo che nemmeno ricordo cosa voglia dire accogliere tra le proprie acque storioni, alborelle e anguille. A Piano Arancio, nel Triangolo Lariano, ci sono le mie sorgenti, con un cartello che dice «Qui nasce il Lambro». Interessante. Manca però l'epitafio da qualche parte con data sconosciuta, perché sono morto, da decenni. Forse sono un fiume zombie, un morto vivente. Oppure chiamatemi cloaca, è più dignitoso. Ricordo che il ministro Ruffolo, nel lontano 1975, quando ero già in agonia, mi promise che sarebbe venuto, 2 anni dopo, a mangiare le trote pescate nelle mie acque. Dopo quella promessa, è successo di tutto. Hanno buttato nelle mie acque miliardi, hanno appaltato e tangentato, hanno pagato milioni di euro di multe per violazione delle norme europee. Ma sono rimasto uno dei fiumi più inquinati d'Italia. Mentre i miei colleghi tedeschi e francesi venivano risanati, a me che vivo in Italia è stata applicata la terapia leopardiana, giustamente. D'ogni dolor, morte risana. C'è più salmonella nelle mie acque che in una maionese lasciata al sole per tutta l'estate. L'ultima promessa di un assessore milanese assicurava che entro i primi mesi del 2010 si sarebbe proceduto alle gare d'appalto per ripulire il mio fondale carico di piombo. Dopo la fregatura di Ruffolo non ci ho creduto nemmeno per un istante. E ora eccomi qui, pieno di petrolio, costretto a trascinarlo in mare. Un morto che cammina, costretto a diventare il killer di un moribondo. La cosa più assurda sapete qual è? Che Milano, la città dalla quale transito, in occasione dell'Expo 2015, si è candidata a diventare la capitale mondiale di depurazione dell'acqua. Potrei ridere, se solo riuscissi a respirare. Silvia. Confusione confusione, vorrei chiarire come funziona il voto per i cittadini americani all'estero. Sono residente in Italia da più di 20 anni e pago le tasse in Italia, ma come cittadina americana continuo a votare per corrispondenza negli Stati Uniti. Posso votare soltanto nelle elezioni federali e non posso votare nelle elezioni statali, locali, eccetera, perché non ho più uno stato di residenza. Per quanto riguarda le tasse, ci sono accordi tra gli Stati Uniti e l'Italia e fra la maggior parte degli Stati europei. Pago le tasse in Italia, ma sono tenuta a fare la dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti, dove indico il mio stato di contribuente in Italia. Miriam. La peculiarità italiana è che possono votare i cosiddetti italiani residenti all'estero che l'Italia non l'hanno neanche vista, oppure che l'hanno lasciata da anni e anni, e le tasse neanche a parlarne. In altri paesi si vota con residenza all'estero eppure per posta entro un periodo massimo prefissato dopo l'espatrio e non in eterno. Marta, Torino. Sono mamma di 5 figli, 3 femmine e 2 maschi, e vorrei parlare del tema il gioco del calcio e lo spogliatoio. I miei 2 maschi, rispettivamente di 9 e 11 anni, si rifiutano, dopo le partite e gli allenamenti, di fare la doccia insieme agli altri perché non vogliono farsi vedere nudi. Dico non vogliono e non si vergognano, perché non ritengo giusto che una persona venga obbligata a farsi vedere svestita da altri. Io e mio marito li abbiamo sempre sostenuti in questa decisione e difesi di fronte agli allenatori e agli altri genitori, in quanto riteniamo che il senso del pudore sia innato nella natura umana e vada difeso. Purtroppo non abbiamo mai trovato comprensione per queste nostre affermazioni, mai qualcuno che ci abbia detto di capire quello che diciamo pur non condividendolo. Ma è possibile che il senso del pudore che difendiamo faccia sì che le persone ci guardino come se fossimo dei poveretti? La frase che da anni ci sentiamo ripetere dagli altri genitori è «Vedrai che fra un po' non si vergogneranno più», mentre gli allenatori ci dicono che il clima dello spogliatoio si crea anche con la doccia e che il calcio non si può ridurre solo alla partita o all'allenamento. Verissimo. Ma non si può creare un bel clima da spogliatoio in qualche altro modo senza immaginare chi non la pensa come tutti gli altri? Francesco, il più grande dei miei figli maschi, mi dice sempre che se i box per le docce fossero chiusi non avrebbe problemi. Questa loro santa ostinazione fa sì che vengano presi in giro da alcuni compagni e continuamente stressati dagli allenatori, o comunque guardati come pecore nere. Sabato scorso il piccolo ha avuto una crisi e non voleva giocare pensando al post partita e all'obbligo della doccia. Credo che il rispetto delle minoranze, che ora va giustamente tanto di moda, debba essere applicato in tutti i campi e che ci si debba sforzare di trovare soluzioni che rispettino tutti, anche chi con argomentazioni valide non la pensa come la maggioranza. Maria. Non vi sarà certo sfuggito che nella puntata di sabato scorso di Striscia la Notizia è stato pubblicizzato l'ultimo libro di Beppe Grillo. Quello che stupisce non è tanto che Mediaset dia voce al comico genovese, quanto che Grillo accetti di usare un canale di quello che lui chiama testa d'asfalto o psiconano per diffondere il proprio dissenso. Tra le altre cose, Grillo sostiene che l'Italia si trovi in una condizione di pieno regime. Comunque stiano le cose, l'episodio lascia piuttosto perplessi. Lettera firmata. Il meccanismo della cosiddetta truffa carosello è ampiamente rodato e tutto sommato semplice. Società A all'estero fattura servizi alla società B. La società B, società italiana creata ad hoc, la cosiddetta cartiera, riceve la fattura senza IVA. Rifattura gli stessi servizi, ovviamente con IVA, alla Telecom piuttosto che a Fastweb. Telecom o Fastweb portano in detrazione l'IVA, poi rifatturano gli stessi servizi alla società A, ovviamente senza IVA, essendo all'estero. Telecom o Fastweb portano a credito l'IVA. La società B dovrebbe versare l'IVA, ma la società B non la versa e poi sparisce. Ecco dov'è il danno erariale. Elena. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.